tratta di compiacerci dei risultati ottenuti. Elencare solo le battaglie vinte dalla metà del secolo in poi. Elencare solo le battaglie vinte per l'istituzione degli asili nido, per i consultori, per la riforma del diritto di famiglia, per la libera contraccezione e per l'aborto, per l'abolizione del diritto d'onore e del matrimonio riparatore, per gli incentivi all'imprenditoria femminile, per l'estensione agli uomini dei congedi parentali, per una legge contro le violenze sessuali. 1901. La metà degli italiani è analfabeta e le donne lo sono più degli uomini. Che inutile fatica intentare studi del tutto maschili, superiori alla media dell'intelligenza femminile. L'intraprendere fatiche mentali troppo forti e troppo alte, che non conducono a nessuna meta sicura e onorevole. Eppure molti giovani non frequentano ormai ginnasi, licei e università mescolate con i giovanotti. E che serve predicare loro che questa scienza mal appresa, mal digerita, ha sottili fonti di veleno nei beni lievi? E non è anche doloroso predicare loro l'ignoranza per preservare qualche anno dei turbamenti che il cosiddetto femminismo impone loro. Triste ma inevitabile. Almeno qualche rimedio si ponga nella forma, se non nella sostanza. Che queste assetate di scienza non debbano anche immolare una parte del loro riservo studiando fra i giovanotti. Si creano fra le tante sezioni maschili una sezione tutta femminile. 1902. Legge Carcano, che limita 12 ore al giorno il lavoro delle donne e dei bambini. 1911. Le sartine ottengono che la giornata lavorativa sia di 10 ore al giorno, ma 6 giorni su 7. Facilissimo. 1915. Una circolare ministeriale dichiara che l'impiego delle donne ha lo scopo di diminuire la disoccupazione e quindi dare la possibilità alle famiglie più povere di fronteggiare l'attuale difficile situazione economica. Naturalmente, alle donne dovranno usarsi speciali riguardi, ovvero non eccedere le 60 ore settimanali, escluderle per quanto possibile dai lavori notturni e proibire loro il lavoro nell'ultimo mese di gravidanza e nel primo dopo il parto. 1919. Iniziano le violenze squadriste contro le donne, che non hanno lasciato i loro posti di lavoro nelle fabbriche ai reduci della guerra. Scolastico, universitario e cattoleto. 1939 viene stabilito che Tomasi dunque, un decreto di Umberto Savoia su proposta di De Gasperi e Togliatti riconosce alle donne il diritto al voto. 2 giugno 1946, le donne al voto. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne timorose di stancarsi nelle lunghe file davanti al seggio e le tasche gonfie per il pacchetto della colazione. Le conversazioni che nascono fra uomo e donna hanno un tono diverso alla pari. 1947. Viene scritto l'articolo 3 della Costituzione che dichiara l'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso. Io, Nina Merlino, chiedo che la prima parola citata sia sesso, seguito poi da razza, lingua e religione. Ma che bisogno c'è di esplicitarlo? Meglio metterla, non si sa mai. È il democristiano Guido Bonella. Uguali nella vita civile ma subordinate in quella familiare. E nel 1949 ma che razza di uomini siete? Se la donna sapete solo comprare e non conquistare. Nina Merlin, dopo il sollecito delle Nazioni Unite, tra lo sconcerto e i lazzi di noi colleghi, deposita una proposta di legge per l'abolizione delle case chiuse. Il marcimonio dell'amore, Marlina, quelle sono donne viziose costrette al mestiere da una iperfunzionalità ovarica. Così dicono. 9 anni di dibattimento. La legge poi vide la luce. Dal 1950. Che ha varcato una sola volta arrivando. scolastico passa da 5 a 8 anni. Né puttane, né madonne, finalmente sono donne. La Cassazione stabilisce per le donne gli stessi diritti degli uomini lavoratori e dichiara illegale la clausola del nubilato. Il licenziamento della donna che si sposa. Tengo 23 anni e vivo a Napoli. Non sono mai stata fidanzata ufficialmente. Ora ci trovate un posto in una fabbrica di provincia. Soltanto che i miei genitori non vogliono che io accetti. Perché dicono che quando una donna lavora perde prestigio. Non può più trovare un buon matrimonio. Anni 70! Aumenta il numero delle occupate. Aumenta il numero delle disoccupate. Chi non lavora non si sente più casalinga ma disoccupata. No, ma fa un culo, ma. Nasce il giornale La Repubblica che impone almeno 20% delle donne nel corpo redazionale. Una novità sorprendente. Viene stabilita per legge la parità salariale a parità di mansione che elimina ogni discriminazione e differenzia l'età pensionabile. Durante il 15° congresso del Partito Comunista Italiano viene bocciato l'emendamento che afferma il partito riconosce la parità in tutti i campi compreso quello sessuale. Anni 80, la riorganizzazione di molte aziende che puntavano sul decentramento produttivo diffonde il lavoro a domicilio, ultima forma di sfruttamento selvaggio. Anni 90, il numero delle laureate dell'anno supera il numero dei laureati maschi. Yes! La legge 215 a sostegno degli imprenditori anche mille. Nascono in 10 anni 2746 aziende, tutta al femminile. Sale in cambio di tradimento. Le collaborazioniste pagheranno. Dopo la liberazione. E pagarono davvero. A volte con la vita. Più spesso con una sorta di gogna popolare che comprendeva la rasatura dei capelli in pubblico. 35.000. Sono le donne che ufficialmente, per aver preso parte ad almeno 3 scontri armati, vengono definite combattenti della resistenza. Ma infinitamente più alto è il numero di donne che prese parte a quella che viene chiamata resistenza non armata e che rischiano la vita per fare staffette, distribuire stampa clandestina, ospitare ed assistere partigiani. La liberazione. Un gran correre. Baciarsi. Abbracciarsi. E cantare in coro. Merda, perché sei morto, padre, non ti mancava, l'insalata era nel lotto, è una cosa, baby. C'era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Del gabinetto. Non si poteva andare a letto, in quella casa non c'era tetto. Carlo Prato, un contadino di Chiaromonte, Basilicata, sposato e con 2 bambini nel 1955, viveva in una casa con una sola stanza. Ma era bella, bella, bella. Brulicante di mosche, senza elettricità, era bella, senza bella, riscaldamento bella, e senza gabinetto. In via dei matti numero 0. Nonostante l'inverno freddo e umido a Chiaromonte, la giacca di Carlo era l'unico abito posseduto dall'intera famiglia. La moglie, che si riparava dal freddo con uno scialle fatto all'uncinetto, era perennemente ammalata. Ma dal 1951 al 1961 10 milioni di stanze in più! Dal 1961 al 1981 41 milioni di stanze in più! Alla fine degli anni 90 nel nord-est Italia non c'erano più di 200 metri in linea d'aria senza una costruzione. Precisa. ma la cosa ha tanto multiforme. E in questi paesi meridionali, dove basta che un giovanotto e una ragazza si siano guardati per 5 minuti da un balconcino, tutti si dicono fidanzati. Ma realmente i fidanzamenti moderni non sono più quelli di una volta. Ma tutti devono sempre seguire preliminari ufficiosi. Quando tutti gli accordi sono presi, allora soltanto ha luogo la cerimonia della mano della signorina. No, è assolutamente necessario che entrambi i fidanzati siano assenti. Altri agisce per loro ed essi aspettano di lontano, tutto sapendo che la domanda sia fatta e sia gradita. È il giorno seguente che il fidanzato è ammesso in casa e trova la fidanzata nel salone. Ed uso in questo primo giorno che gli porti un dono alla ragazza consistente in un anello. È da consigliarsi in questi primi doni più eleganza e gentilezza che soverchia ricchezza. Una fidanzata non è un idolo indiano da coprirlo subito di gemme. I doni devono sempre seguire una certa gradazione. Thank you.

che il tempo trascorso permette a qualcuno di farci del male. Non torna. Prega per noi, Maria. Prega per i figli tuoi. La seconda volta un collier di carta. mese trattamento di porcellanizzazione del volto a Parigi, bianca come la luna. Vabbè, Lidia, sai che è sta porcellanizzazione? Una posizione. La faccia, mi sono bianca la faccia bianca come la luna, guarda, tocca mia faccia bianca. La faccia, sei sicura non mi conosce? Guarda, mi sono sbiancata come la porcellana. Tu bianca. Thank you. ufficio che conservò per 13 anni, guadagnandosi il rispetto di tutti i partiti. Siamo più felici, noi donne italiane oggi, rispetto alle nostre ave del primo Novecento? Sì, l'ingiustizia sociale può essere fonte di grave malessere. Un equilibrato assetto della società non garantisce automaticamente la felicità, che dipende in gran parte dalla sfera individuale. Cambiamenti avvenuti nel XX secolo hanno dato questo sì, la possibilità alle donne di scegliere la propria vita, nel lavoro, nel matrimonio, per la prima volta nella storia, nella propria vita. Scegliere comporta un'assunzione di responsabilità, anche se spesso può essere anche gravoso. La fatica della libertà.